L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Girano così le cose, sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo, che se la prendo torno, torno e mi risveglio da te. Ben ritrovati da Anna Migliorati, buon sabato, siamo arrivati anche a Pasqua e da ieri sera si lavora ufficialmente alla fase 2. Il 4 maggio dovrebbero riprendere molte attività, alcune già da martedì, subito dopo quella che sarebbe stata comunque la chiusura di Pasqua. Ne parleremo ancora con i nostri GR e anche con l'economia delle piccole cose. Intanto io saluto e ritrovo Paolo Ambrosini, Associazione Librai, perché leggere è stata proprio una delle cose che nelle nostre case abbiamo fatto di più, oltre alle torte probabilmente, e concedetemi la battuta. Ambrosini, buona giornata. Grazie, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Da martedì, di fatto, chi vuole riapre, innanzitutto contenti? Contenti che sia stato riconosciuto il libro come un bene necessario, quindi noi nello spirito di servizio che richiede il momento così difficile per il paese, andremo a riaprire le nostre librerie per consentire ai lettori, a tutti gli italiani, di poter venire nei nostri negozi a cercare un libro che sia compagno di viaggio per queste giornate così faticose che ancora abbiamo davanti come paese. Andranno avanti in parallelo la riapertura e la consegna a casa. Sì, certo, su questo credo che tutta la rete delle librerie farà tesoro dell'esperienza di questo periodo e cercherà di mantenere questo servizio della consegna a domicilio, che è un valore che i nostri clienti stanno apprezzando tantissimo. Chiaramente dovremmo cercare di equilibrare un po' gli orari di apertura con le attività di consegna, ma questo ognuno si organizzerà per cercare di tenere insieme le due cose. Abbiamo parlato di librerie quando parlavamo di nuovi modi per inventarle. Da un certo punto di vista, lo stare, per chi ha potuto stare a casa così tanto, è stato forse anche riscoprire il volume che aveva messo in un angolo e dimenticato. Ora la riscoperta è anche così. Che il libro comunque dagli italiani, dai lettori, è ritenuto un bene necessario. E grazie al libro può fare un'esperienza di evasione, perché oppure i libri sono dei bellissimi strumenti che ci permettono di comprendere meglio quello che sta accadendo attorno a noi, cosa vuol dire una pandemia, cosa vuol dire virus, perché nascono le pandemie. Nei libri si possono trovare le risposte anche a queste domande. Vi hanno anche dato una mano e sono arrivati in realtà degli aiuti. Sì, indubbiamente l'esigenza ha spinto gli editori a costituire un fondo che ci permette di consegnare gratuitamente i libri in tutta Italia, no? Chiaramente con tutte le precauzioni, con tutte le attenzioni che sono necessarie. Quante sono queste librerie? Circa 500 librerie stanno fornendo questo servizio in tutta Italia e il numero degli editori cresce di giorno in giorno. Noi auspichiamo che questa iniziativa rimodulata possa comunque rimanere, perché ha dimostrato che laddove si crea una collaborazione tra la produzione, l'editore e il libraio, si riesce a riportare il lettore al libro. Noi l'abbiamo un po' raccontato dicendo che la grande distribuzione, i grandi colossi, di fronte a questa emergenza, qualche piede d'argilla l'hanno ovviamente dimostrato. In tutto questo sono riemersi i piccoli germogli di tutto quello che ci stava attorno. Forse il libro è uno di questi. Esatto, il libro è uno di questi, e torno a dire che il libro gli italiani che leggono lo desiderano, lo vogliono nel loro comodino, e se c'è una forte sinergia tra editori e librai, credo che si riescano a superare anche i momenti difficili come questo che stiamo attraversando. Mi permette di dire un'altra cosa, che le librerie si sono anche tutte in gran parte attivate con attività social, per cui andate a cercare la vostra libreria sotto casa e vedete cosa vi sta proponendo come lettura, come consiglio di lettura. Perché è un'altra delle cose che abbiamo fatto, non è solo quello di consegnare, ma anche quello di consigliare. Allora, buona Pasqua e grazie per essere stato con noi. Buona Pasqua a tutti e a presto. Ti prenderò in braccio. libri e poi anche le nostre case, c'è chi ha pensato anche a casa propria, pur come sempre nella situazione ovviamente difficile. Allora, com'è andata? Andiamo anche qui a curiosare tra altri scaffali. Sabina Canese, presidente invece di Assoferramenta Confcommercio, grazie di essere con noi. Sì, grazie a voi. Allora, c'è una differenza temporale tra l'inizio dell'emergenza e poi la stretta che c'è stata con i decreti. Fino al decreto dell'11, chiaramente magari si vendevano molto cose che potevano riguardare la casa e ancora in parte si continua a vendere, per esempio pitture e pennelli sono sicuramente i prodotti che si vendono di più, perché le persone chiaramente hanno più tempo, quindi magari soprattutto per la bella stagione iniziano anche a dare magari qualche colpo di pittura, quindi tutti questi tipi di prodotti o consumi importanti, non so, di multiprese. Ricercati ad esempio, quando si è scoperto che bisognava fare smart working ed in contemporanea magari due figli dovevano usare il computer e poi c'erano i cellulari da ricaricare e poi. Esatto, esattamente, perché chiaramente sono cambiate appunto le esigenze, tutta la famiglia in casa, e quindi diventano questi prodotti molto molto semplici, comunque quelli molto più venduti. Poi bisogna però dire che nel momento in cui sono iniziati i decreti contenitivi si sono registrate vendite quasi esclusivamente di quelli che sono i DPI, quindi mascherine, occhiali, guanti in lattice, guanti. Sono alcune zone d'Italia dove comunque insieme alla farmacia il Ferramenta è il luogo anche di riferimento. Diciamo che un po' i consumi in tutta Italia, un po' le abitudini, le piccole economie in tutta Italia hanno viaggiato su due binari necessariamente con intensità diversa. Chi non è stato in prima linea, l'esigenza però magari di lavorare sulla propria casa l'ha sentita. Certo, questo comunque l'apertura delle ferramenta nel territorio italiano si può registrare intorno a un 40%, 40-50% in generale. Quindi necessità di tenere aperte, ma di ridurre anche l'apertura, efficientamento di quelle che erano le scorte a disposizione per la mancanza degli approvvigionamenti, e quindi questo è un problema. Diciamo, un algoritmo non ti può risolvere il problema, mentre magari nel negozio di fiducia sotto casa dove ti conoscono, cioè diventa anche, no, un rapporto, uno anche umanamente cerca di soddisfare un tuo bisogno, quindi diventa, cioè, diventa fondamentale. Però, ripeto, tra invece i prodotti per la casa, quello che si è venduto, lampadine. Paura che si rompa nelle settimane successive. Esattamente. Pennelli e pitture, ecco, devo dire che pennelli e pitture sicuramente sono stati i prodotti più richiesti e più cercati, quelli che comunque hanno risposto anche molto. La situazione contingente ovviamente ha pesato e ha pesato tantissimo. Grazie allora per essere stata con noi. Grazie a voi. Alessio, bello di mamma, c'è la torta. E basta con queste torte, pensate sempre a mangiare. Piccola economia nel carrello della spesa. Marco Colombo Iri Group, non dirci che abbiamo fatto ancora torte, o forse sì, visto che si attende domani Pasqua. Bentornato. Grazie, buon sabato anche a te. Com'è andata allora la settimana? Ha confermato quel trend leggermente di riduzione dell'incremento di vendita che avevamo già visto la settimana prima. Rallenta il nord-ovest e rallenta per la prima volta anche il centro più Sardegna. Quindi la crescita è poco superiore all'1%, ma ha una spiegazione. Ci sono delle parti del punto vendita che vanno bene e delle altre parti che vanno meno bene. Per tradurlo, compriamo solo certe cose e non ne compriamo altre. Esatto, compriamo tutto il prodotto confezionato. Il trend di crescita del confezionato è superiore al 15% dall'inizio della crisi, con dei picchi che sono stati addirittura superiori al 20%. I reparti che soffrono sono i prodotti venduti ai banchi assistiti, banco salumeria, banco gastronomia, banco macelleria, a causa di riduzione del servizio, riduzione degli orari o addirittura chiusure. Tessile, bazar, accessoristica, elettrodomestici. Continuano a resistere anche i piccoli negozi di cui abbiamo parlato e l'online? Sì, i piccoli negozi, superette, i negozi di prossimità mantengono il loro trend di crescita del più 25, più 30%. Sono stati veramente l'elemento che ha salvato molta parte della popolazione per quello che riguarda l'approvvigionamento. Allo stesso tempo l'online mantiene questo trend. Ormai dall'inizio della crisi, quindi dalla settimana del 23 febbraio, l'online ha raddoppiato le vendite che aveva avuto nello stesso periodo l'anno scorso. Ecco, ci sarà da capire, sarà interessante nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, capire se l'online resterà comunque a livelli più alti anche quando si sbloccherà tutto. È Pasqua, ci siamo fatti mancare nel carrello della spesa o no i prodotti pasquali? L'abbiamo chiesto anche settimana scorsa. Allora, com'è andata? I prodotti di Pasqua vengono acquistati, in particolare le uova, sostenuti però soprattutto dagli acquisti nei supermercati. Allora, buona Pasqua e ti ritroviamo la prossima settimana però. Come sempre, e vi auguro una buona Pasqua. Economia che cambia, questa volta perché noi cambiamo. Ci risentiamo settimana prossima per capire come procede, dove andiamo, cosa faremo senza ponti di primavera, ma per questo ci sentiamo la prossima settimana. Intanto ancora un saluto da Anna Migliorati. Come sempre ci trovate anche sul nostro sito www.radio24.it.